10 minuti fa, ma non di più, ma lo rimetto dentro perché per me è ingombrante, no? Mi dà fastidio, ormai la cosa ingombrante ormai mi dà fastidio, non la sopporto più. Va bene, ogni tanto bisogna toglierlo perché quelli se no si rovinano, se non li fai scaldare ogni tanto. Appunto, sì, che a me quando mi sentono Santiago 9 va più che bene, no, non c'è problema. Marco mi sente così, Natalino non lo so, comunque, e tu suppongo anche forse qualcosina anche di più, suppongo. Se 9,20. Figurati. Se dovessi fare così, sono a fondo scala più o meno, qua, ritorno indietro. Aspetta, ecco qua. No, già vanno bene gli apparecchi. Sì che funzionano, vanno bene. Io non lo uso mai, è conservato da un sacco di tempo questo. Ogni tanto così, solo per farlo scaldare, ma solo per accenderlo, ascoltare, basta, ma niente di più. Non mi interessa, insomma, ecco, non mi interessa più di tanto. No, a me mi piaceva molto il 140, quando ce l'avevo mi piaceva, perché aveva anche lo Smith giusto, vabbè, anche il Galaxy ce l'ha giusto. Il Galaxy per me è il massimo, però anche il 140 mi piaceva. Un'ultima radio, anche quella, già lo credo. Dai Natalie, parla che così ti do il segnale, quello giusto, la lancetta, non quello analogico, cioè non quello digitale, ti do quello analogico. Vai Natalie. Vai Giulio, dimmi. Allora, picchi positivi che arrivi a quasi a 9,10, però l'importante è arrivi solo a 8 di segnale, così segna. E se c'ho 2 watt, cioè, aspetta e provo a vedere con i suoi, vediamo un po', guarda l'importante. 9,5 e superi 9,10 modulati. E cappa. Fondo. Ok, vai Marco, ti do il segnale e poi lo ritiro, dai. Sì, Natalino, fondo adesso. Prima era 9 più 20, anche se i LED non valgono nulla, adesso è più 30. Gianni, vediamo il parere di Gianni. MB più 5 su McKinley. Su che apparecchio? Resident McKinley con MB più 5. La radio è chiara, Marco, è proprio limpida, buona, non c'è niente da dire. Buono, dai. I toni li abbiamo dovuti mettere a zero, perché sul Superstar lo puoi tenere a 3, a 5 il tono, ma qua l'abbiamo dovuto mettere a zero, sennò la modulazione è finissima. L'S, le senti tipo soffiate, raschiatemi. Tipo nei paesi. Un cineggio. Perché lì ci vuole il 4, non il 5. Non so, ma va consigliato Roberto, se avevo qualche cosa un po' per attutire, eppure non sono vicino al mic, cioè sono 30 centimetri, sto parlando anche piano. Guarda, se dovessi mettermi vicino, così sono vicino al mic, parlando un po' di lato e non frontale, vedete com'è? Va bene, già l'ho capito com'è. Va bene, ho dovuto mettere, Gianni, l'adattatore da 6 poli a 4 poli, perché questo ha 6 poli, capito? Sì, ho capito. Cioè la prolunga. Ah? Hai una prolunga, ho detto, è uno spezzo. Sì, breve, sarà 30 centimetri, non di più. Tanto da poter utilizzare. E poi ho avuto la fortuna che gran parte degli apparati a 6 poli hanno gli stessi pin. E quindi posso usare gli amplificati che tanto non uso sul praticamente quasi tutti gli apparati, per non dire tutti. Bene meda. E insomma, è grasso che cola, dai. Viene, mi assento, vado in cucina, riprendete, bella sta lì. Andrà bene. E via. Già, io come sto arrivando di segnale lì. Prova che non stavo guardando. Guarda, adesso sono con i 2 watt. 9,30. E cosa vuoi di più? Va più che bene. È una pazzia, danne di più, Natali. E infatti, poi non ho bisogno di regolare nulla. Tanto tutto e so quando vi va. E va anche meglio. Non ho forza l'apparecchio, va benissimo. Ciao ragazzi! Sono finiti ormai i tempi di una volta, cosa devo fare, non serve a niente, non serve a niente, proprio a nulla di tutto, comunque va bene così, dai. Adesso mi dà fastidio perché qua non c'è spazio, dove sono non c'è spazio, lo ritiro e passo di nuovo all'altro del poc'anzi. Ok, no problem. Questo bene va il microfono, Natalino. Benissimo. Questo qui l'avevo fatto una modifica e ho visto che spingeva bene. Sì, che spinge, va benissimo. Da bene meda. E io mi sono andato a farmi la spesa, oggi mi sono proprio stressato. Una giornata che sono in tutta la casa, spolverato, lavato. Mi sono fatto il bucato, steso la roba e stasera sono andato a farmi la spesa. Mi sto tornando come acceso, come sono tornato acceso. Sì, cappa. Ma domani mi porto ti sboghi i piatti che mi sono lavato e basta. Oh signor, adesso non ho voglia di fare nulla. Mi sto venendo a portare il cane, stamattina lo stesso l'ho portato io perché mia moglie è già incontinente, quindi... Ah, ecco, è vero che doveva andare, quindi sei libero Natali stanotte? Sempre sono libero io. Cosa facciamo stanotte? Ah, io ho 3 o 4 ucraine che devono venire qua. A me già mi basta. Cazzo, tu a me bastano i 3. Bucardinate 3. Ah, che poi di sciari non ti conviene. Ti conviene da farti dare una mano da un amico. No, no, già mi lavotto. Per adesso mi lavotto. Cappaga, gioia. Lancio una gara qua, ti fanno un giro, sempre tornando in casa, sempre facendo, andando da un ufficio all'altro, per carità. Ecco, ho fatto un po' di spazio adesso, così sono meglio, troppo ingombrante. Bisogna avere il logo, è un macello. Io metto questo qui e va più che bene. L'altro a bisumio a Garda Gonzalo sarà morto perché ha perso l'apparato che serviva per controllare quell'integrato lì, per sapere la causa perché si è bruciato. E non lo trova? No, no, gliel'hanno buttato proprio all'ecocentro, hanno sbagliato macchina e al posto di una cosa c'ha delle cose che non gli servono. L'imidu. Cazzo, solo quello costava più di 400 euro. Non ci posso credere, c'è la lampada là, è la bomba. Oh, sarà finito appianto al mio scappatore MFG. Molta roba, ma molta però. Aspetta. Natali, sarà finito a fianco del mio accordatore MFJ? Evidentemente sì. Una volta Natali sono andato alla discarica a Monterosi a buttarci il cartone vuoto e è arrivato questo signore disperato, quello della ruspa, gli ha detto ascolti, per sbaglio mia moglie mi ha buttato via una scatola dove c'erano tutti quanti i miei avviri, ho conservato tutti i soldi lì in questa scatola, lei stava facendo ordine, ci ha buttato tutto e non so se c'erano, mi pare sui 13.000 euro, una cosa del genere. Figurati. No, questo mentre stava traslocando gli hanno fatto sparire un bel di roba. Una macchina invece di andare in officina è andata all'ecocentro e quella doveva andare all'ecocentro è andata in officina e infatti in officina aveva la mondezza. Sì, questo qui gli hanno detto quelli che c'erano, gli hanno detto gli spazzini, gli hanno detto sì dai se lo troviamo glielo facciamo sapere, ci dia l'indirizzo. Come ti sei andato tutti gli spazzini, io che se chiamo tutti fuggendo in mezzo alla mondezza che scappava lo scatolone con i soldi. Io ho il bidu e col cavolo ne l'avranno tornato se li hanno trovati. non lo so, ma poi un'altra volta è venuta la finanza a bruciare, si è fatto fare un foglio, si è fatto firmare un foglio da quello della Ruspa, e gli hanno messo fuoco cassette, di quelle cassette audio, dai, quelle lì, roba, fumo, fumo di roba c'era, hanno messo l'arco, il boomer, hanno fatto prendere fuoco, quando è finito tutto quanto se ne sono andati, si sono accertati prima che si fosse bruciato tutto. Per forza, perché c'è roba che deve rimanere segreta e quindi... loro quando distruggono devono essere sicuri che è distrutta la roba. E quelle cassette audio, sai quanti non avviene? Oh, a scatto uno li hanno bruciato. Sì, lo stesso, dovevo fare la guardia io quando prendevo la carta negli uffici, mi dovevo stare attento che finiva tutto nel cassone della carta, perché c'erano documenti compromettenti, un sacco di roba, e dovevo stare attento io che mettessero tutto lì, capito? Avanti. Ok, no, sono ritornato col baracchino omologato, non c'è problema, con 2 watt naturalmente, ma già va bene ugualmente, per cui così almeno non ho troppo poco spazio, invece così c'è più spazio e posso anche muovere meglio, se no sul comodino mi dava anche fastidio, è troppo ingombrante, è grande quanto il comodino quasi, per cui l'ho dovuto togliere, ho già, non mi interessa più, insomma, ecco, lo tengo perché è bello averlo, mi piace, però non a usarlo non lo uso più frequente come una volta. Giulio, guarda adesso, sto uscendo con 2 watt, guarda il segnale come sta arrivando. Adesso sto usando il coso, digitale io, che cosa, il segnale è sui 9,20 passato, dovrebbe essere, perché è leggermente più su del 9,20, però non so quanto possa essere preciso questo, però diciamo che ho fatto dei cosi, dei confronti, ho fatto e diciamo che bene o male il segnale è quello. Prima mi stavi arrivando 9,20 con quello a lancetta, adesso mi stai arrivando 9,20, però suppongo che sia 9,22, 25, non lo so in preciso perché, ripeto, questo qui è digitale. Guarda questo passaggio giù. Ma, diciamo che questo, forse questo è intorno al 9,15, non lo so, dovrebbe essere così, 15, 17, forse 18, non lo so già. Sai come quando hai uno strumento così a barrette, non è che puoi dare un segnale proprio preciso. Avanti, data. Sì, quasi 9,30, sì, qua. Non è che cambia molto, da 10, da 9 a 2 watt, non è che cambia molto. Sì, infatti. E infatti non è che ci sia questa sostanziale differenza, quando, almeno come segnale, per cui non magari può darsi che all'occorrenza sia necessario, però è più o meno la stessa cosa, quando tu aumenti di qualche watt, così 7-8 watt, non è che hai aumentato un granché, siamo lì come segnale, si può aumentare di mezzo punto, massimo un punto, niente di più, o già. Avanti Marco. Marco in cucina. E per un punto S bisogna raddoppiare la frequenza, capito, dopo il 9. La potenza dopo il 9. È un macello, Non è che quando siamo vicini è così. Si nota di più in lontananza, ma da vicino cambia poco. E poi siamo più o meno quasi tutti attaccati. Tu in linea d'aria sei vicino, Giulio un po' di meno perché ha i punti, però c'ha il varco, perché io anche col PMR se trovavo il varco mi sentiva benissimo, vero Giulio? Sì, benissimo, alla grande, ma veramente bene, come se sento al baracchino, a parte il discorso segnali ovviamente, però come radio era perfetta, no? Non c'era problema, era grande veramente. Sì, ma guarda che io col PMR una volta, mi ricordo tanto tempo fa, sono uscito in macchina, ma non stavo guidando io, sono andato sulla 131 e sono andato per arrivare lì in via Milano e ho fatto tutto il giro, passando dai punti, tutto sia via Milano e poi sono sceso verso via D'Umberto, quella zona lì, e non vi ho mai perso, mai, e non mi avete nemmeno perso come modulazione, come cosa, sempre col PMR ho già. Sì, io una volta ho parlato con Continente, con Gommino, no, non PMR di quelli che usano stazione base, eccetera. Col Gommino, col portatile, col Gommino, questo mi ha puntato la direttiva da Continente, mi c'era Vittorio testimone, Vittorio Giovane, e abbiamo parlato. Sì, e beh, in quegli anni passati si parlava sempre, soprattutto con quell'amico che c'era di Genova, che puntava la direttiva sulla Sardegna, puntava. E parlavamo tutti quanti, parlavamo con Continente, non c'era problema, ma io senza quello, oltre a quello, qui parlando di Sardegna, prova tu a chiedere a Sandro di Porto Torres, dove mi ha sentito, in Corsica, con Gommino, in Corsica, lui era nella punta più alta della Corsica, nella zona più alta, e io sentivo lui, tra l'altro in macchina, ti puoi immaginare, eppure ci siamo sentiti, chiedi a Sandro se ti sto dicendo bugia quando lo senti. I carabinieri su internet, no? Stavano andando in questa piazza dove spacciavano e avevano il PMR in macchina, perché i spacciatori usavano il PMR, c'erano le sentinelle che controllavano, e ha detto subito: carabinieri in vista, occhio, ci sono i carabinieri, fate uscire tutte le macchine praticamente nostre. Deve essere che ci sono quelli in macchina che ce l'hanno in macchina, capito? I carabinieri hanno bloccato tutte le strade perché avevano il piano, dice, ci dobbiamo adattare a quello che fanno loro. Beh, certo che sì, lo so, purtroppo loro trovano i sistemi, trovano questa gentaglia per fare certe cose che non devono fare. Comunque, facciano come credono, prima o poi intanto già li pescano, e io sono contento quando li pescano, guarda, figurati. Vai Natali. Infatti io non ne ho più né QR, né c'ho il ricevitore solo. Uno mi si è rotto e l'altro l'ho regalato. No, non me ne faccio più nulla, adesso mi prendo quell'altro con la I, e poi mi prendo, quando mi tornano il K, mi prendo anche il K. Non me ne posso più, mi lascio questo qui, già mi dispiace per il 3009, quello già mi dispiace che era omologato. Vabbè, vorrà dire che mi tengo questo solo. Ci possiamo mettere d'accordo, tengo il 3009, mi dai il capo. Perché il 3009, Natale? Come? Il 2009 che cosa ha avuto? Si è guastato? Ehi, l'amplificatore microfonico non esce di radio, la portante la mette ma non esce di radio, capito? È un integrato, non è neanche il modulatore, è un integrato, però adesso ci vorrà tempo perché ha perso questo misuratore di funzioni, stava dicendo. E avrebbe trovato il condensatore, perché sicuramente è un condensatore che ha mandato in corto quell'integrato. Ah, ho capito. Vabbè, peccato perché il 2009 è un bel baracchino. Ma se non riescono a fartelo qua, a spediscilo fuori, te lo aggiustano di sicuro. Perlomeno, o almeno a Borole lo puoi mandare. Chi lo sta facendo? Adriano? Se non trova il pezzo lo puoi, se vuoi rivolgere o a quello di Borole, Albino, oppure addirittura in Continente, con un po' che spiccioli te la capri. No, il pezzo già si trova, la causa bisogna trovare, perché ha detto come lo piazza me lo brucia attorno. O non hai compreso, bisogna trovare la causa per la quale è andato in cortocircuito questo integrato. se no non lo puoi aggiustare così, e ci vuole quello strumento che gli hanno buttato all'ecocentro Adriano, solo quello costava 400 euro. Quello lì, come l'attaccavi, ti diceva qual era il condensatore che era andato in affangualla e lo aggiustava subito con quello. L'integrato non è un problema a trovarlo, il condensatore è il problema, che li deve trovare a uno, hai capito? Ho capito, vabbè, lo so, purtroppo per aggiustare questo tipo di radioline ci vuole strumenti sofisticati di una certa levatura, per cui è meglio, vabbè, ma se per caso non dovesse aver fatto, già lo sai a chi lo puoi mandare, no? Quelli ce li hanno, gli strumenti adatti, lui Adriano, per quanto bravo possa essere, ma se non ha la strumentazione giusta fa difficile per lui riuscire a rintracciare. Comunque saremo a vedere, dai, diamogli tempo, che già è bravo anche lui, però ripeto, ci vogliono strumenti adatti. Vai Gianni. Ma lui già ce li ha gli strumenti, solo che pensate, non sbaglio, gli hanno buttato via. Gli hanno buttato quello, un frequenzimetro, gli hanno buttato. Di quelli professionali, non di quei giocattoli, no. Era Manu Gante, un K, era Manu, il suo frequenzimetro. L'analizzatore di funzioni gli hanno buttato via, quello serve per poter sapere la causa perché è andato in cortocircuito quell'integrato, capito? Certo che sì, bisogna andare a monte per quale motivo questo integrato si brucia, bisogna proprio, come hai detto tu, trovare la causa, se no è inutile sostituirlo perché siamo sempre punti a capo, perciò diamogli un po' di tempo se riesce, se no al limite non te ne disfare, Natalie, lo mandi fuori e te lo aggiustano. Ti do io l'indirizzo, guarda, è di uno della Bassa Italia che lo fa per passione, è da un ex poliziotto, ma è un Mic 20, non si chiama, una cosa del genere, ma ne fa tanti, ne ha fatto anche per gente della Sardegna, tipo una ragazza di Ursi, della Mandata, e gliel'ha messa a posto, tutta gente che manomette le apparecchiature, lui con santa pazienza riesce a sistemarti alla grande, veramente. Ma che è quello robusto? Adesso faccio questo, bisogna vedere cosa c'è, quello lì. Mic 20, una cosa del genere. Il cognome, comunque già lo so io dove, già lo trovo io l'indirizzo, non c'è problema, quando ti occorre ce l'ho sempre a portata di mano, basta che guardi dentro un cassetto e trovo le coordinate dove spedirlo, capito Natalia? Sì, io ho capito, non c'è problema. Questo affare qua, se non hai quello strumento è un casino, non penso che Albino ce l'abbia quello strumento, perché è roba professionale, a che guaccio uccidi, a che finale, a che cosa buacunzaghi, ma questi danni così non li aggiusti, senza strumenti non puoi fare nulla. Albino ce li ha gli strumenti, è pieno di strumenti, dillo a Carlo, mi sono vicino. Bisogna vedere se c'ha quello strumento. Addirittura a me mi hanno truffato con quel 3009, perché quello lì non è nuovo, ci sono pezzi che non sono i suoi addirittura. La piastra della scheda madre non è messa nel suo incasso. Dimmi tu, l'albo del cacchio sono, è stato già malomesso quell'apparecchio. Addirittura, se l'avevi comprato dal negozio, che l'abbiano dato preso in permuta e poi l'hanno venduto a te. No, quello lì gliel'hanno restituito magari, l'hanno messo a posto e poi l'hanno rivenduto per nuovo, quella è truffa. Beh, se è così sì, certo che è truffa. Peccato, però, quando mai ti hanno fregato in quel modo? Boh, non so cosa dirti, ma tutto è possibile, già lo sai, oggi che gente un po' pochino delinquente ce n'è un po' dappertutto, per cui non c'è da meravigliarsi che abbiano fatto così. Magari l'hanno ritirato in permuta per prenderne un altro, l'hanno riparato e poi l'hanno venduto come nuovo. È possibile, non c'è da meravigliarsi. Vai già. Sì, gente, sono ancora qua, non sono venditori qui. No, io mi è arrivato tutto quanto imburigato, c'è l'airon, tutto quanto sopra, quando l'ho comprato, e così è, mi sempre nuovo così è. E il mio perché come mi è arrivato? Mi è arrivato così, tutto imbustato, tutto bello messo, perché era nuovo. Solo che quello è un apparecchio che a loro gli hanno restituito, perché sicuramente si è guastato, no? E allora loro l'hanno riparato e me l'hanno venduto per nuovo. Addirittura ti dico che hanno messo un diodo che non è il suo, gli hanno messo nell'alimentazione, perché come l'ha visto, siccome li conosce come le tasche sue, quegli apparecchi, come l'ha visto io non avevo neanche notato che c'era la piastra storta. Dimmi tu, me l'ha fatto notare tu, ma nuovo ti sembra? Guarda qua, mi ha fatto, questo diodo non è il suo, ma come te l'ha visto me? Senza manco duccarlo. Ah beh, se li ha fatto là, chissà come sono fatti i valori di Dio, li conosce, normale. Vabbè, purtroppo noi non ci siamo dentro, cosa ne possiamo sapere di quello che fanno loro quando li ordini? Tu li ordini per nuovi e poi fanno queste stronzate qua. Io ero convinto che era nuovo, io come l'ho aperto non mi sono accorto di niente, essendo profano, hai capito? I documenti li avvicio immediatamente, quando dice apparecchio non è nuovo, perché io gli avevo detto io l'ho comprato per nuovo, l'ho pagato tot, l'ha giudito tutto quanto, ma guardami, questo nell'alimentazione me l'ha fatto vedere, questo qui non è il suo originale, assolutamente, guarda la piastra com'è, questo qui è stato già messo mano, gli hanno smontato la scheda madre a quell'apparecchio, addirittura, ma di là temi già, e l'hanno piazzata alla cazzo di cane, perché è una cosa che uno esperto subito se ne accorge di queste cose. E quando è chiuso come fai a saperlo? Se uno che non è esperto lo sai accorge, loro puntano sempre su quello, capito? Che tu non te ne accorga. Profano non se ne accorge, no. Cazzo, ci bisogna ancora nei ricubacchimi, qui ancora un nylon per non rovinarlo. Gli ho lasciato il nylon che c'era sopra. Nei tappi. Dimmi tu. Era nuovo come è arrivato, solo che quello lì deve essere un apparato difettoso e me l'hanno venduto per nuovo, perché gli hanno messo mano loro. Quello lì è stato messo mano l'apparecchio. E che ti devo dire? Io ho un po' centrato Marco. Marco? Io sono qua, stavo ascoltando. Scusate che devo sgracchiare. E purtroppo, vabbè, anche alcuni italiani venditori potrebbero farlo, magari non i noti dal, scusate. Ah, che macabro questo. Questo su. Ma è una sillomi. Cioè, suona sempre quando sto parlando. E poi un minuto avanti anche, tra l'altro. Però è bello, il pendolo è bello, a me piace il pendolo, Marco. Ce l'avevo che faceva quel rumore uguale in via, quando stavo in via Marghinotti. Ce l'avevo. Così quel pendolo. Ce l'avevo nel corridoio e faceva proprio di su rumori macabro che dirigiamo. Da un cazzo. Sembra che ti stia segnando la mezzanotte, l'ora delle streghe. Questo è un pendolo cinese, è meccanico ma è cinesaglia. Diciamo, se lo senti dal vivo non è molto spettrale come suono, invece quello che era di Dio Salvatore, quello proprio antico che avevamo, quello c'aveva una molla grande, cioè c'aveva la cosa di risonanza grande, quello era veramente spettrale, ma quello l'hanno dovuto disattivare perché essendo forte il suono disturbava quelli di sotto e di sopra, l'avevano dovuto disattivare, poi vabbè si era rotto eccetera, roba vecchia. Sopravvivato per un pezzo con la taglia, vabbè. Da poi c'è quello che immagino di più veloce la taglia. Cazzo, ma vai, lui di più veloce a vivo. passato, ti è passato mattino con due batto, io con grosso modo gli stessi batti. Gli abbassa i gasigli, senti che parlate, lo so parlato. Giudicate, giudicate. Facciamo la mucchiata, ciao Luca. Ciao, ciao, cuocuova. Meglio? Come Luca. Ciao, ciao Nandini, ciao Antonio Cuocuova, ciao Marco... Marco Cundù. Vai Luca Nasone, vai. Naso. Ma vero che noi cutia cacca, Luca, vero? Non l'ha capita, sì. Ciao Giulio, sì sì. Faccio una settimana domani che sono uscito. Ok, tutto a posto? Quello che è a posto. Faccio un bel riposino, adesso vado. Se faccio una bella doccia, mi cambio, devo uscire. Con la mia fiamma. Luca, ti sei già rifatto? Secondo te, dopo il te pure uno. Beh, d'altronde, cogli l'attimo. Musica, non musica, eccetera, eccetera. Cap die. Cos'era Luca? Il calcolo, quei famosi calcoli che avevi da qualche annetto? No, però al naso Giulio. Mi adesso Marco ti fa l'elenco. Vai Marco, chi non la giugare, faccio un naso tappando. Adesso devo andare a fare lavaggi. Oddio, cos'erano? Grosso modo polipi, ce l'hanno operato i turbinati, credo tolto polipetti, e corretto il setto Luca anche, o era giusto il setto? Sì, sì, anche il setto. Stavo dicendo Luca, anch'io ho una deviazione nasale, ma da tantissimi anni avevo avuto un incidente, avevo avuto tantissimi anni fa, e ho una deviazione nasale, ma mi è rimasta, non ho fatto mai niente. Anche perché non mi dà fastidio. Vabbè, se respiri bene lascialo così, perché non è una passeggiata. Purtroppo è una passeggiata. Quando fa... scusate, quando fa l'aspirazione che va al controllo, che lui va su, aspira, tre particellucci. Lo so, infatti alle volte mi si forma una specie di fischietto, mi si forma, ma comunque non me ne dà del fastidio, dai, mi rimango così. Vabbè, ma se non ti dà quel fastidio, cioè, vabbè, purtroppo, già avevo chiuso, ho fatto pure l'attacco, pensavo un po'. Vabbè. Ora come ora è chiusa perché è tutto pieno di crema. Deve rimanere umido, capito? Grasso. Perché se va a aspirare e trova le croste, addio. Non so come va a arrivare. Il naso è una delle parti del fisico più delicate, già lo grido, e purtroppo è così. Ce n'è un po' per tutti di tanto in tanto. Vabbè, comunque tiriamo avanti, dai, lo stesso. Tu già sei giovane, grazie a Dio, e ancora già resisti e ti riprendi subito, veramente. Perlomeno questo è il mio augurio. Vai Gianni. Stavo per dirti se stavolta faceva qualche cosa, invece devi uscire con la pischella, e non mi hai detto nulla. Ugari, si sta mettendo, sta facendo il lavaggio al naso, dai. Marco. Eia, ma a pescare state andando, cuocomani? No, a pescare, c'ho le canne ferme 2 anni. Ah, non era uscire tipo pesca, uscire tipo così locali. Gatto, andare a cantare. Non sono degno di te, non ti merito più. Già, scusa, stai parlando come, non ho capito. No, niente, come l'ho detto lui. Ho detto, ti stavo per dire se facevamo qualcosa stavolta, invece se devi uscire con la pischella, vai con la pischella. Se tu organizza già. Io sono andato a mangiare da poco la Fede da Benito. Sta lo spettacolo. L'ha fatta di tutte le maniere, anche con zucchine, peperoni, salsiccia come si chiama, cipolle, guarda, una mangiata a non finire, mi ho sentito 13,50 a testa, non ho bevuto acqua ho bevuto chi birra, chi vino, aranciate, Coca-Cola, 13,50 a testa. Non avete speso tanto, se era abbondante non avete... Io l'avevo mangiata, la Fiorentina a Sorso, avevamo fatto l'incontro contro dei charters, e praticamente abbiamo mangiato, siccome anche lui era uno di quelli che chattava con noi su Sassari Online, praticamente abbiamo fatto la pizza, la mangiata lì da lui, ma abbiamo mangiato di tutto e di più. Immagino, anche noi abbiamo fatto la mangiata, ma bella di quelle... belle, vabbè, adesso io mi alzo, vado a farmi i lavaggi, facevo mettere le medicine dentro questo bibero, una specie di bibero con una pompetta lunga, schiacciare, puff, così mi pulisco tutto il naso, e poi faccio lo spray, e dopo lo spray devo mettere la crema, e tra l'altro uscivo la crema, sembro troppo di cocaina dentro il naso, perché è bianca. Bello cremoso. Sì, mica di Natalino, Natalino bellissimo, la data. Allora. Ah, non è cambiato lo spacciatore. Io la prendo da quel negro, la prendo, gli dico se ne ha di quella cosa. E lui mi tiene voi, mamma. Mica ce la toglie dalle mutande, mi. Quello che hanno beccato al corso con la roba addosso ce l'aveva nascosta nelle mutande, immaginati, è aromatizzata, mi capito? Non è solo bamba normale. E beh, quello io non lo so com'è la situazione, perché Adriano si era avvicinato a Dughidu e la ditta mi dice se ne voleva di bamba. In occhi sotto a casa, mi dimmi tu. Sì, sì, è ovunque lo spaccio, e tutti questi neri hanno preso il posto degli spacciatori bianchi. Insomma, il problema più grande è che costa troppo. La coca è la droga dei ricchi. Hai capito? Il problema è che costa, non che ci sia la droga. Comunque la colpa degli utilizzatori è perché se non ci fosse richiesta non ci sarebbe nemmeno spazio. Ma la coca fanno tutto, fanno medicine, capito? Perché l'anestetico, secondo te, non c'è il derivato della cocaina anche? Guarda che è un eccitante la cocaina, ignorante. Sì, ma c'è anche c'è in mezzo la cocaina, cosa si dice? E i foimadi allora, visto che tu non sei nuda. La lidocaina vuoi dire? La cocaina è un eccitante, le medicine le fanno dalla morfina, le fanno. Ma ci sono anche tracce di cocaina, informati, invece prima di parlare e di ignorare le persone, informati. Tu sei un cuocuomo e basta. Tu mi fai dai cannoncini, di crema, no, di cose. Ma mi dico, posso darti una regione, una lezione magistrale ti posso fare, ma anche di cucina, amico. Ma io nel mio piccolo sono lo chef, però le faccio buone le cose, Natali, buone, tipo pasta al forno, possiamo fare una gara a vedere chi la fa più buona, sono sicuro che ti supero, per come la faccio io ti supero, la scommessa, io, ci stai, facciamo una scommessa, se c'è qualcuno che c'è la campagna, le prepari una tua, la preparo io, sicuro al 1000 per 1000 che ti supero, io, ci stai? E vai che io già ho fatto una carbonara che mi hanno fatto pure i complimenti. Hai capito? Bello bene. Lì non mi puoi sfidare assolutamente. Ah, io ancora mangio carbonara, non mi piazzi. No, non è cosa che a me piazzi. Però io sono abbastanza al forno, io sto per fartene una. Però nel mio piccolo non sono mai morto di fame. Quando ero con la mia ex, alla fine cucinavo quasi sempre io, le facevo io le cose. E grazie a Dio, che chiuso per la giubbolto. Io mi impegno, ci metto di più, magari tu la fai in un'ora, un esempio ti faccio, ci metto 2 ore, però la faccio veramente buona. Io pasta al forno non ne ho mai fatto, la verità si dica, non ne ho mai fatto, però altre cose, domani faccio me la faccio ai frutti di mare, la pasta al forno ai frutti di mare. Se no la pasta asparagi e come salmone. Lui è nulla, Con gli asparagi mi faccio la frittata io. A me piace quella ai funghi trifolati alla contadina. Adesso mi alzo, se no avrei bisogno di così. Faccio una bella doccia, che ci vuole, poi asciugo la fritta. E io ce l'ho perso la reggia. E poi mi sono dovuto scappare perché c'avevo la macchina al parcheggio a pagamento di Piazza Colonna. E niente, adesso non mi più, io sto la barba. Mi vediamo. Va bene. Si è preso la macchina? No, l'hanno prestata. Ma quella là non l'hai presa? E qua lì c'ho. No, io gli diamo casino, che tu di soldi. Quella lì per metterla a nome mio, perché a Balati devo arrivare, avevo 3.500 euro. Non so. Ci sono spese con la macchina. Sì, adesso non faccio più niente, riprendete, arrivo subito. E se no ci sentiamo dopo, ritratevi salutare. Va bene Luca, siamo qua. Avanti Giulio. Ok già. Oggi due cose ti posso dire. Intanto è il mio compleanno oggi, no? Già. Natalino già lo sapevo perché gli ho detto stamattina. E poi mi è scaduta anche la patente oggi. Figurati, sicché adesso, questa prossima settimana devo rinnovare anche la patente già. Adesso scadono il giorno del compleanno del documento. Così sono andato nella scuola guida e mi hanno fatto tutto loro. E c'ero di fronte io, figurati. Dove abito io c'è la scuola guida, di fronte. A 10 metri da dove sono io, non è proprio di rimpetto, ma spostato di 10 metri nella fila delle case di fronte. Ce l'ho a casa io praticamente la scuola guida. Cos'è la Formula 1, Ricci? No, l'Olimpia c'è. Olimpia, ho capito. Quella di Via Zanfarina. Lì avevo preso la patente io. Quella di Via Zanfarina avevo preso la patente. Questa è Olimpia 2, Olimpia 2. Poi c'è la stessa società, questo non te lo so dire, perché non è Olimpia 1, questa è Olimpia 2. Se sono sempre loro, questo non te lo so dire. Però c'è da tantissimi anni qua, anzi c'è da prima di arrivare io qua, io ci sono già 20 anni qua in questa strada e quando sono arrivato io loro c'erano già forse anche da qualche anno. E a me me l'ho fatto tutto loro, la patente mia gli è arrivata a loro, quando gli è arrivata mi hanno chiamato, sono andato e me l'ho ritirata. Tu gli arriva tramite posta. Chi è che sta battendo la portante a Gianni? Auguri Giulio. Grazie Marco. No, forse mi siete sovramodulati con qualcuno che vuole entrare. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? È come un segnale oscillante, come se fosse propagazione. No, c'era un segnale qua a fondo scala, quando stavo parlando Gianni, forse non se ne è accorto, così sbadatamente ha premuto anche lui. E allora è baramobile. No, non ci sono problemi, dai. Mimì pompandomi. Problemi non ce ne sono. Il lagarubumpa. Oh, mi avete fatto venire fame. Natali, è la polenta, ti piace? Sì. La polenta sì che mi piace, una o due volte l'ho fatta qua, sia polenta che anche il purè ho fatto, e la signora già si è ingrassata bene. Io ho i ceci, Natalì, devo fare la pasta con i ceci, ma non l'ho mai fatta. Sì, ti vuoi sai, mi ha fatto la pasta con i ceci. Pasta ai ceci, pasta ai fagioli, minestrone. Il minestrone Concetta cucina bene, quello lo fa bene veramente. Pasta ai fagioli con i salamini dentro, è proprio buono, poi soprattutto col brodo con un pochino denso, è proprio buono, Natalì. Sì, già lo so. Lo credo. E tornando al discorso della polenta, sai come mi piace soprattutto la polenta? Una volta che si raffredda, no? Rimane compatta, tutta solida, no? Tagliata a fette e fritta, a sera è buona, mi piace da matti. Anche a me e anche a mio padre piaceva così. Realizzò i trucchi già, giù. Piaceva anche a me così, tagliata a fette e fritta, cate poche buona. E se no tagliata a fette e fatta anche il sugo che messo in forno, sugo, mozzarella sopra e formaggio, Sì, anche così l'ho mangiata, anche così, buonissima, col filante sopra già, col filante messa nella teglia e fatta a fette e messa in forno, col filante sopra. Sì, mamma la faceva così. Un impregnante o mozzarella puoi mettere. Sì, infatti ognuno poi ha la ricetta sua personale, però diciamo che di solito la base è quella, col sughetto e col filante sopra, oppure altri formaggi tipo fontina, che so io, queste cose così. Poi se uno ci aggiunge anche la mortadella, tanto è guadagnato. No, mozzarella ho detto, non mortadella. Mozzarella volevo dire, a me mi è uscito oh, mozzarella volevo dire, ho sbagliato io. Come ho detto, la pasta al forno, c'è gente che ci mette uova sode in mezzo, sono tutte quante cose che aggiungono loro, non è così la pasta al forno. Le uova sode, che cosa ci fa in mezzo alla pasta al forno? La pasta al forno, già mia moglie la fa molto buona, la verità. La pasta al forno, solo che a me mi sazia troppo la pasta al forno, io mangio una fetta, le mangio e poi, però mi piace molto. Preferisco, alle volte preferisco di più i ravioli, quelli mi piacciono lo stesso moltissimo. Vai Natali. E cappa. Io non ne faccio pasta al forno perché se mi indui, da voi mi avanza, compreso, e non ne posso pagare. Ne fai una teglia piccola, tu compri con le teglie cookie piccoline e ne fai una teglia per due persone, sai? E infatti ne fai una teglietta piccola, se non vai da Conad e te la compri già confezionata, che ne fa quelli di bandiera gialla, la fanno e la portano alla Conad. No, roba confezionata non ne compareggio, se la posso io. Io mi accontento. Guarda, se tu mangi quella di sfogliadoro che la fa giornalmente la pasta al forno, ti lecchi le dita, Natalia, è come fatta in casa, è buonissima, il sugo non è acido. Vabbè, io faccio questo ragù che è meraviglioso, dai. Che faccio soffritto, ci metto anche i pisellini, ci metto carote, sedano, eccetera, e la carne macinata. Esce un ragù buonissimo, dolce, buono. E l'ho mangiata da poco la pasta al forno, perché l'ha fatta Adriano, l'ha fatta. Tiriamo un magnata. Ma questa roba di teglia di pasta al forno. Quando sei due bisogna fare una teglia piccola, perché se stai tre giorni mangiando pasta ti mangi male, ti mangi la glicemia a mille. Non è per quello, io sono diabetico, non è che ne posso mangiare che c'è cose. Comunque qua nella zona qua ci sono un paio di pizzerie che sono in gamba, tipo il pizzicotto 2, oppure il pomodoro, fanno una buona pizza veramente. Vabbè, io sono stato intossicato al pomodoro, non ti ricordo. Ci ha intossicato tutta la famiglia. Ci ha dato la pizza con la mozzarella variata. Siamo stati tutti a vomiti e cose, siamo andati anche al pronto soccorso, immaginati. E lui gliel'ho detto che era acida questa roba qua, lui mi ha detto no, sono fresche, guarda la data. Gli ho detto scusi, ma se lui mette le mozzarelle vicino al fuoco è normale che si acidisce. Ah, non vi credi niente. Non sapessi questo. Sì, no, ma comunque diciamo che già è un ristorante come si deve, dai. Evidentemente c'è stato un errore, che ne so cosa hanno combinato, però di solito è un ristorante affidabile, dai. C'era stato un caso già, non so cosa dirvi. Ti parlo di anni fa e non adesso. Stavamo tornando, eravamo da mia sorella a Porto Tosi, c'era mio padre, che è stato l'unico che non è stato intossicato, perché ha voluto la fettina e un po' di insalata, non ne ha voluto di pizza. E gli altri abbiamo mangiato tutti la pizza, miei figli, mia moglie, io e mia sorella. E ha cominciato mia moglie, che ha cominciato... Gianni, fermati, che mi sta avendo voglia di rimettere, e ha rimesso. Poi mia figlia, poi mio figlio, poi mia sorella ci ha telefonato anche da sua, ma vi sentite bene voi o no? Siamo tutti a vomiti, anche io, qua ci ha fatto male qualche cosa lì quando abbiamo mangiato. E niente, i carabinieri volevano un pezzo di pizza, ma noi l'abbiamo lasciata lì, mica mangiavamo la pizza, l'abbiamo sentita acida, l'abbiamo mangiata, io ho mangiato un boccone, ho assaggiato quella di Marco, che era panna e salmone, mi pare, panna e salmone. come l'ho assaggiata, ho cominciato questa nausea, cosa, per carità, non me ne voglio ricordare. E vabbè, sarà successo, non lo so, però in ogni caso lui c'aveva le mozzarelle vicino al fuoco. Capito, ma allora sarà stato quando c'era un'altra gestione, forse la prima gestione, non lo so. Comunque questi mi sembrano abbastanza tranquilli, abbastanza locale, anche discreto, dai, per cui boh, sono anche puliti, però questo non vuol dire niente, se la cosa era variata magari nemmeno loro se ne saranno resi conto, ma suppongo che era un'altra gestione che c'era prima, o Gianni, non questi di adesso. Avevo Marco piccolino io, ci avrà avuto 2 anni e mezzo, 3 anni Marco. Allora no, non sono questi di adesso, non sono questi di adesso Gianni, sicuramente era un'altra gestione. Avanti Nathalie. Marco. Certo, anche io c'ero passato una volta con un panino da qualche parte. Eravamo in 3, siamo stati tutti molto male. Ci siamo sentiti 2 giorni dopo, abbiamo fatto il confronto dei sintomi, erano uguali. E bruttino. Cosa volevo dire? Vabbè, non me ne ricordo. Riprendete voi. No, per Marco, che me lo son perso. Ma ti sto parlando dell'88-89. In via Napoli c'era questo Lady Domini, una paninoteca, no? Avevamo preso quello stesso tipo cheeseburger, no? Quindi hamburger, formaggio, pomodoro, insalatina, salsa rosa. Però ti spiego, abbiamo preso lo stesso panino, poi però in un bar abbiamo preso lo stesso gelato tipo cornetto algida. Quindi io pensavo più fosse il panino, ma a questo punto non potrei escludere nemmeno che fosse il cornetto, che però aveva un sapore ottimo, come il panino d'altronde. Insomma, sintomi così, insomma, nausea forte, vomito, poi pupufetti da tutta sfilacciata il giorno dopo, un po' di febbre, dolori anche alle gambe, proprio un'intossicazione vera e propria. Per fortuna che non era roba letale, perché ci sono certe cose, tipo il botulino, che ti possono anche portare alla tomba. Però adesso vai a scoprire adesso se era il panino o il gelato. Poi non avevamo conservato resti della roba alimentare, a meno che non li diamo. Beh, non lo dico, dai. Ma Marco, l'intossicazione alimentare è una delle peggiori che c'è. Ti può portare alla morte, secondo come va, specie quando sono latticini che sono pericolosissimi. Infatti io lì c'era anche la carne, ecco perché pensavo, ma poteva essere tutto, neanche verdura lavata male, che aveva pesticidi, anche sui pomodori si trovano i pesticidi, ma tutto è possibile, però vai a risalire. E poi il gelato, chi lo sa, il sapore era buono, ma metti che fosse roba mezza fradicata e poi ricongelata, capito? Vabbè, comunque stessi sintomi, uguali, pensa che io ero a scuola guida di sera, in Viale San Francesco, e cominciavo a sudare, a sentirmi poco bene, per fortuna poi finita l'ora di scuola guida, come stavo salendo in Viale Mameli, sì, in Viale Mameli, parti basse, mi viene questo rigetto in strada, mamma mia, sono dovuto tornare muro a casa, che mi sentivo proprio male. Cavolo. Non so, perché io mi sono dovuto fermare, perché anche mia moglie si è sentita male, poi si è sentito male Manuela, poi Marco, insomma, poi mia sorella ci ha telefonato a casa che era con i figli, anche mia sorella si sentiva male, i figli di mia sorella, e anche lì. Mi ha detto, ma voi bene vi sentite, perché qua siamo tutti quanti vomitando e cose, e anche io sono così, chiamiamo i carabinieri, mandiamoli per bloccare almeno questa cosa prima che faccia male a qualcuno. Stavo notando un'apertura di propagazione, ma l'avete notata anche voi, qua certe volte scende e c'è silenzio, poi risale, un po' anche a periodi lunghi però, cioè non da un passaggio all'altro, da un'ora all'altra, adesso sta risalendo di nuovo, ve ne siete accorti o me ne sono accorto solo io? No, io non me ne sono accorto, ma che l'ho distratto, magari perché c'è il cane qua vicino e cose, non ho sentito nulla. A proposito di propagazione, stasera facevo carrellata questo presto però, intorno al 20 sentivo questa specie di splatter, ma tra un canale e l'altro sentivi questa voce ma non capivo cos'era già. Ho detto, ma non è il 19 alfa, non è. Praticamente poi sai cos'erano? Se metti i mezzi canali, lo zero finale, praticamente sul 20 c'era la Polonia in FM, perché loro usano l'FM, e questi segnaloni di propagazione 9 oltre il 9, Polonia in FM, sul canale 20, sì, che loro hanno lo zero finale, capito? Non hanno i canali come i nostri. Ho capito. No, io stasera ho acceso dopo che sono tornato a fare la spesa, perché stamattina non ho avuto tempo, che ho dovuto pulirmi tutta la casa e tutto quanto, quindi non ho avuto tempo. E sono andato stasera a fare la spesa. Io mi pare, avevo provato a chiamare, ho detto Sardinia Island Calling Italy, però questi parlavano polacco, cioè non parlavano inglese, ho detto vabbè, ho detto allora ho cambiato canale subito, niente da fare, però notevole, e non era uno però che arrivava, erano tutti che arrivavano bene, probabilmente era dalle. Ma quanto sono? Ogni mezzo? Sì, suona anche la mezz'ora, fa un tocco ogni mezz'ora che sta sempre suonando. E non ti rompe, boh, io non l'avevo sopportato questa cosa di mezz'ora, ma un cazzo, da sussi. No, magari se l'avessi parlato in italiano, loro capiscono meglio l'italiano dell'inglese. Oddio, vabbè, poi la pronuncia, sai come l'accento, non, anche se parlano inglese quasi non te ne accorgi, perché lo parlano a modo loro, vabbè. No, sai cos'è già? Questo orologio non ci interessa tenerlo attivo, però vorrei scaricare le molle, perché ne ho trovata una che era precaricata a manetta, vorrei scaricare tutte e due le molle, sia quella della soleria e sia quella dell'orologio, e lasciarle scariche, capito? Poi se uno le vuole caricare per usarsela, almeno solo però, non sono caricastrozzo, capito? Si può anche spaccare la molla così. Ho capito. Vabbè, se la lasci in tira è normale che si può svenare. Poi ripeto, per quanto mi non è che stava cominciando anche a difettare un pochino questo. Non sono pregiati come quelli antichi. Quello antico me lo ricordo, ma cioè. Non so se fossero di bronzo in ingraggi addirittura, se roba bella teccia, qua è fa ridere dentro. Quello con le catenelle che c'erano le pigne attaccate, vi ricordo, io ce l'aveva mia madrina. Eia. Ok, Giulio riprendi. Sì, riprendo e vedevo anche salutare, dai, che io ho qualcosa da fare qua, sono già le 7:30, dunque è arrivato il momento. Va bene, dai, io vi ringrazio per la chiacchierata, è stato un piacere parlare con tutti voi, per cui sono stato bene stasera, dai, alla radio. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao Natalino, io ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Riprendi pure Natalino se ci sei, grazie a tutti per questo, avanti Natalino. Va bene, giù. Buon proseguo di serata, allora se stai andando via, anch'io adesso mi preparo qualcosa da mangiare e poi mi chegolco. Quindi signori vi lascio anch'io, vi ascolto comunque, non lo spengo, dai. Mi devo preparare qualcosa, non mi ero accorto che erano già le 7:30. Ma ce lo facciamo il notturno stavolta? Ah, chi non ha giugana, domani al limite me ne scendo al mare, me ne scendo, prendo il cane e scendo col cane, tanto bucaro devo e quindi scendo con lui, se fa bel tempo, se no nisba, neanche domani. Cappa, va bene, d'accordo Natali, ci sentiamo, dai. No, scusa. Sì, te ne stai andando, saluto anche a Giulio, grazie per il questo, Giulio, e buona serata. Ciao anche a te Natali, dai, avanti Marco. Cappa, ciao Giulio, buonasera, buon proseguimento di serata. Alle prossime. Natalino, idem con patate, anzi credo che avessi già cenato, voglio dire. Ok, ci sentiamo. E io, boh, cosa faccio? Mi devo ritagliare la zazzera e la barba, non ne ho voglia però devo fare. Perché i capelli tutti li tagli? Sì, aspetta, ho sentito un break, con la macchinetta, cioè li accorcio un po', però la barba è lunga, me la devo fare tutta. Avanti il break. Buonasera, sono io? Sì, avanti. Ma... buonasera, buonasera, Mario Porto Torres, un saluto a Natalino che mi sta ascoltando. Ciao Natalino! E anche un altro amico che non ho capito chi è sotto, poi mi pare che ci fosse Giulio? Di punti? Bene, buonasera anche a lui se non erro. Almeno così mi è sembrato di sentirlo a mezzo il QRM, perché ormai io QRM, permettendo, ascolto. Avanti pure chi tocca, buona buonasera a tutti ovviamente. Ehi, allora, ciao Mario, ben sentito, cordialità anche a te, già ne do più uno da questa parte. Se sta uscendo con l'apparecchio di ieri, sta uscendo bene. No, oh, quello funziona abbastanza bene. Ieri, insomma, avevo qualche problema con quell'altro, hai capito Gianni? Capo, ma magari è una questione di regolazione, è qualcuno che lo sa regolare bene, lo regola. Perché può darsi che abbia toccato qualche cosa che non devi toccare, spostato, magari l'hai spostato di 10 kHz, qualche cosa del genere. No, no, ma lì è proprio lui che non è a casa, insomma, diciamo. Non è tutto in bolla, come dicono i muratori, capito? È qualcosa che comunque riguarda l'apparato all'interno da mettere. Vabbè, però vedremo un attimino. Comunque questo qua dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare nonostante sia più vecchio di quello di ieri. Vabbè. Chi è l'amico che mi ha fatto entrare prima? Avanti, che ti sento un po' in lontananza. K, Marco da Sassari, con pochi watt. Adesso mi ascolterei meglio. K, ben entrato. Qua Giulia ha chiuso, Natalino lo stesso, dai, siamo rimasti in pochi. Fra un po' farò qualcosina comunque. Bene, mi copri meglio adesso? Beh, non esce la portante. Oh cacchio. Ti sei rimasto il tasto abbassato. Si è bloccato tutto. Ma ogni tanto succede. Sì, buonasera, però non ho capito chi sei, mannaggia. Ho sentito già la tua voce, ma non mi ricordo. Marco. Marco Condor. Ah, ecco Marco, benissimo, perfetto, sì, ti ascolto. Ti ascolto molto meglio di prima, perlomeno sei sul QRM, quindi riesco ad ascoltarti. Un po' di matte ci vogliono, quanto pare, in questo periodo qui, perché il QRM non sembra, però da fastidio, sulle modulazioni un po' così, e sui segnali bassi ovviamente. Comunque adesso ti ascolto bene, perfetto, a pochissimo, avanti pure. Mario, a me mi fastidisce il QRM, dati da fastidio. Il QRM, guarda, tu ci passi sopra tranquillamente, tu arrivi alla grande. Però è ovvio, il QRM da fastidio a tutti è una cosa incredibile. Guarda, poi se ce l'hai, diciamo che arriva al livello del tuo segnale, però tu comunque capisci, è fastidioso da sentire, è proprio una cosa, tu adesso ampiamente ci passi sopra tranquillamente. E vabbè, io però devo andare via adesso perché devo portare giù il cane, ti lascio in compagnia di Marco Condor e... ti saluto, dai, mi dispiace ma devo andare, il dovere mi richiama. Tranquillo, non c'è problema, buona passeggiata col cane allora, ogni tanto ci vuole, ovviamente. A te Marco. Cappa, allora mi sa che anch'io faccio lo stesso, mi dedico alla barba e alla zazzera, se non mi tocca farlo domani mattina che poi abbiamo roba da fare, così poi mi guardo la TV con calma, cena e tutto. Bene, dai, allora ci andate via, vi saluto, buona serata, state bene, piacere avervi sentito e naturalmente un saluto anche agli ascoltatori, quindi state bene, buonasera a tutti. Ciao Mario, ciao anche a Marco, dai, ci sentiamo. K, ciao Mario, dai, buona serata a tutti. Ciao, buona serata anche a voi, ciao.